Alex 105 Milano non è solo il titolo di questo podcast, ma è anche il nome d'arte che, diciamo, utilizzavo anni fa quando svolgevo l'attività di radio DJ. La moderna tecnologia informatica e software ha offerto l'occasione di fare podcasting. Anch'io ho voluto nel mio piccolo quindi cogliere questa occasione per tornare davanti ai microfoni e proporre dei temi o quantomeno esprimere i miei pensieri. Mi piace, a dire il vero, pensare a internet, quindi al web, come a una forma di grande democrazia a livello globale, una democrazia attraverso la quale ci si può esprimere i propri pensieri, confrontarsi e magari dare adito a delle conversazioni, a dei dialoghi su temi interessanti o quantomeno che possono cogliere l'attenzione di noi su determinati argomenti. Io credo molto in internet, nel web, e per questo motivo ho tempo fa creato un mio primo sito e ora mi accingo ad allestirne un secondo. Però ecco, ho voluto così provare anch'io l'ebbrezza della comunicazione attraverso il podcast e questo appunto è il mio primo podcast. Per questo motivo diciamo che io mi auguro che in seguito ci si possa risentire e possa avere la possibilità di dialogare con voi, di parlare su temi interessanti e di proporre quelli che sono i miei piccoli pensieri. Per il momento vorrei solo limitarmi a ringraziare tutti gli amici che mi vorranno seguire, mi vorranno ascoltare e comunque anche coloro che avranno modo di ascoltare questi podcast nel rispetto reciproco e sempre con grande senso di amicizia, di fratellanza e di umiltà. Vi ringrazio e vi rimando alle prossime e vi auguro un buon tutto. Ciao!